America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. That's what we've been fighting for. But with this endless parade of distractions and political posturing and phony scandals, Washington's taken its eye off the ball. And I'm here to say this needs to stop. Barack Obama, il presidente americano a Knox College in Illinois. Vi avevo detto l'altro giorno, vi avevo anticipato che ci sarebbe stato questo importante discorso economico del presidente, un discorso tutto proiettato verso il recupero del benessere della classe media, perché Barack Obama dice: senza la classe media, senza il benessere della classe media, l'America non potrà andare avanti. E dunque un attacco a Washington in questa apertura di discorso. Washington che si preoccupa più di scandali che di cose concrete, Washington che è fuori palla, soprattutto per ciò che riguarda la sfera economica. Ecco, Barack Obama fa questo discorso a un'America che è pronta ad ascoltarla, perché in effetti molti cambiamenti dovrebbero avvenire su più fronti ed è un paese che è pronto a recepirli. L'economia è migliorata molto ed è migliorata grazie a, quella proverbiale flessibilità del paese, disponibilità ad accettare il nuovo e a cambiare. E a proposito di cambiamento, un esempio concreto di come il paese è predisposto ad accettare dei cambiamenti, vorrei partire adesso da una notizia che è un po' una dimostrazione concreta di come l'America può cambiare. E il cambiamento in oggetto è un cambiamento che avviene a New York. Simon and Garfunkel, è una delle tante interpretazioni che il duo ha dato nel Madison Square Garden. E vi parlo del Madison Square Garden perché è questa la notizia, ve la darò fra poco. Ma il Madison Square Garden che cos'è? Questo palasport nel cuore di New York, dove ci sono stati eventi di ogni genere, e fra la settima e l'ottava da una parte, fra la 33 e la 31 dall'altra. In questo palasport, è successo di tutto, ormai fa parte della storia non soltanto di New York, ma della storia americana, direi in alcuni casi, della storia mondiale. Sentiamo. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Un piccolo brivido, credo che lo avrete avuto tutti. Questa è Marilyn Monroe che canta Happy Birthday a John Kennedy. Quest'anno, tra l'altro, il 50° anniversario della morte, dell'uccisione di John Kennedy. Ho dedicato già qualche puntata al presidente ucciso, ne avremo delle altre in avvicinamento dell'anniversario. Ma di nuovo al centro il Madison Square Garden, perché è stato lì che Marilyn Monroe ha fatto gli auguri al presidente. Solo dopo avremo saputo che fra i due, e dal tono della voce forse lo si capisce, c'era un affare molto tempestoso. 2-0, Knicks on top. Tip it off the weave, met by Johnson. Scotty off the glass. Johnson, Magic Johnson, sono i Knicks. Il Madison Square Garden è anche un tempio dello sport, non soltanto la boxe, non soltanto l'hockey su ghiaccio, ma è casa per i Knicks, la grandissima squadra di pallacanestro newyorkese. E lì avete sentito il cronista che raccontava una delle imprese di Magic Johnson. Dunque, questo Madison Square Garden è una leggenda, è un'istituzione. Eppure, ed è questa la notizia, proprio ieri ha ricevuto una notifica di sfratto. Se ne dovrà andare, dovrà abbandonare questo posto mitico ormai, dove è successo di tutto e dove la storia dello sport, della cultura, della musica e insomma ha avuto alcuni dei suoi momenti più importanti. Cos'è successo? Che la città di New York, che in genere non guarda in faccia a nessuno e guarda sempre in avanti, per una volta ha deciso di guardare indietro, perché dove oggi c'è il Madison Square Garden, una volta c'era la stazione, la Penn Station, una delle stazioni di New York. Ebbene, questa stazione è stata demolita, al suo posto poi è stato costruito anni dopo il Madison Square Garden, e siccome Penn Station in questo momento sta per avere un grosso rilancio, Nel giro di 10 anni il Madison Square Garden se ne dovrà andare, dovrà trovare un altro posto, costruire un nuovo stadio. Attenzione, perché non è la prima volta che il Madison Square Garden si sposta. Come dice il nome, prima era proprio su Madison Avenue, all'inizio di Madison Avenue. Poi, dalla fine 800 in avanti, si è spostato varie volte e dunque avrà una nuova vita. Si creeranno nuove strutture, si creerà un nuovo stadio da una parte e dall'altra si creerà una nuova stazione. E quindi sono progetti infrastrutturali importanti per la città, cambierà il volto della città, un progetto urbanistico. Ecco, è questo che volevo dire quando anticipavo che l'America è un paese pronto a recepire il cambiamento e dunque a recepire un discorso come quello di Obama. Perché se un posto mitico, leggendario come il Madison Square Garden può ricevere una banalissima notifica di sfratto per andarsene, beh, immaginiamo che cosa può succedere a livelli macroeconomici. This moment does not require short-term thinking. It does not require having the same old stale debates. Our focus has to be on the basic economic issues that matter most to you. Barack Obama qui entra nel vivo del discorso e dice: non possiamo pensare al breve termine, dobbiamo pensare a lungo termine e alcune delle sfide economiche fondamentali con cui ci confrontiamo. Bene, quali sono? Beh, intanto al 1° di settembre ci sarà il rinnovo del tetto sul debito, che è in scadenza. Se non sarà rinnovato, gli interi Stati Uniti d'America potrebbero finire come Detroit, in fallimento. Non succederà, perché alla fine si troverà un accordo dell'ultimo istante, come sempre successo. Ma ci sarà un braccio di ferro politico. Poche settimane dopo, al 30 di settembre, bisognerà approvare il bilancio americano per l'anno fiscale 2014, che inizia appunto il 1° di ottobre. E dunque scaramucce politiche, bracci di ferro, diciamo a breve medio termine. Barack Obama in questo caso ha voluto giocare d'anticipo, incoraggiare Washington e la sua controparte a trovare un accordo anche su queste questioni macroeconomiche. Ma per la classe media, vi dicevo, c'è qualche cosa di più, c'è un messaggio più lofty, più elevato. That's why America has to make the investments necessary to promote long-term growth and shared prosperity. Rebuilding our manufacturing base, educating our workforce, upgrading our transportation systems, upgrading our information networks. Ecco, qui Barack Obama entra nel vivo. Beh, dobbiamo pensare a ricostruire l'America, le infrastrutture, i trasporti, le reti internet, l'educazione. Dobbiamo investire nel settore manifatturiero. C'è stato un grosso rinascimento del settore manifatturiero in America, ne abbiamo parlato già in altre puntate. Barack Obama non è entrato nel dettaglio, ha voluto dare un messaggio di quello che è possibile, di quello che è possibile guardando al futuro e dal punto di vista economico. Attenzione, oltretutto è un presidente che parla partendo da un punto di partenza già abbastanza avanzato, perché l'economia americana non solo è uscita dalla crisi, ma sta già crescendo, ha già creato occupazione. Ma l'America guarda oltre. Ecco, c'è qualche cosa di davvero nuovo in questo discorso di Barack Obama? Beh, direi fino a un certo punto, perché alcuni di questi messaggi Barack Obama li aveva già dati nel discorso del dicembre 2011 a Ozawa Tomi. Ecco, perché dunque Obama riparla di queste cose? Perché la sua è una sfida politica, oltre che economica, vuole provocare i repubblicani guardando alle elezioni del 2014, le elezioni del midterm, che rinnoveranno Camera, un terzo del Senato, vuole recuperare la maggioranza alla Camera, la maggioranza democratica alla Camera. La risposta dei repubblicani non si è fatta attendere. What's the point? What's it going to accomplish? Probably got the answer. Nothing. It's a hollow shell, it's an Easter egg with no candy in it. Che cosa vuol fare il presidente Obama? Beh, un bel niente, perché sta parlando di un guscio vuoto, sta parlando di un uovo di Pasqua senza il regalino. Questo era John Boehner, il presidente della Camera, il presidente repubblicano della Camera. With all the build up, you'd think the president was unveiling the next Bond film or something. Beh, con tutto il cancan che hanno fatto alla Casa Bianca, potevamo aspettarci che il presidente ci presentasse un nuovo film di James Bond. Invece ci ha fatto vedere un film vecchio, un film degli anni 70, un film di quelli che si vedono d'estate. Tra l'altro anche un B-movie. Questo è Mitch McConnell, che è il capo della minoranza repubblicana al Senato. Beh, e questo per dimostrare e confermare che cosa? Che in America si gioca sempre d'anticipo, si parla di economia, ma si vuole dire politica. La battaglia per le elezioni del 2014 è ingaggiata. Da New York è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!